sì, forte e chiaro. Ciao, allora, come, insomma, come gli ascoltatori e le ascoltatrici sapranno già, questa mattina è partita l'ennesima operazione poliziesca repressiva in tutta Italia in merito ai fatti del 15 ottobre scorso qui a Roma durante la grande manifestazione nazionale, e ci sono stati degli arresti, delle perquisizioni, delle denunce, fioccano gli obblighi di firma e di dimora, e in particolar modo le agenzie stampa e i giornali online di tutto il paese stanno puntando il dito contro la città di Teramo, contro i compagni e le compagne antifasciste di questa città. Per cui innanzitutto vi esprimiamo la nostra massima solidarietà e volevamo sapere un po' da te, da voi, cosa è accaduto, cosa sta accadendo in questo momento in città. Beh, sì, come dicevi giustamente tu, nell'ambito dell'operazione che è stata condotta a livello nazionale è stata colpita, è stata interessata anche la provincia di Teramo. Nello specifico, che noi sappiamo, sono tre le ordinanze di custodie cautelari eseguite a Teramo. Una riguarda un nostro compagno Davide, un appartenente al nostro movimento, mentre le altre due riguardano due compagni che noi conosciamo ma che non sono direttamente, diciamo, coinvolti, riconducibili al movimento Azione Antifascista. Tutti e tre sono ai domiciliari, senza la possibilità di ricevere visite e telefonate. Che dire, questa è una notizia che ci coglie di sorpresa, come penso a tutti, perché viene dopo sei mesi dai fatti, arriva come un fulmine a ciel sereno, e adesso noi ci stiamo organizzando per vedere di esprimere la nostra solidarietà, la nostra vicinanza ai compagni arrestati. Con qualcuno in qualche modo abbiamo avuto la possibilità di metterci in contatto, e comunque stanno tutti bene, sono tutti convinti nel continuare la lotta, che è anche il nostro obiettivo. Dunque, noi sì, dimmi. Dunque, per capire un attimo bene intanto la situazione, sì, tecnico-legale, sono stati notificati, sì, gli arresti domiciliari, quindi adesso gli si arresti trovano domiciliari. Gli arresti. Allora, ti spiego subito. Sui giornali risulta 5 coinvolti a Teramo. Sì. Che noi, però, sentendo anche i legali, noi abbiamo la certezza che siano 3. Uno, appunto, questo Davide di cui ti parlavo, che è aderente, appartenente al nostro movimento, un po' il motore del nostro movimento. Gli altri due sono due ragazzi che conosciamo, che ci frequentano, che però non sono di Teramo, sono della provincia di Teramo. Okay. E che, come ti dicevo prima, non sono direttamente coinvolti in azione antifascista, anche se comunque, diciamo, sono dei simpatizzanti, per così dire. Mentre degli altri presunti due arresti ancora non riusciamo a capire, perché poi, come saprai bene, come capirai bene, le notizie sono discordanti, perché i media dicono una cosa, magari l'avvocato ce ne dice altre, quindi stiamo ancora tentando di capire noi bene. Comunque i tre coinvolti sono tutti e tre i domiciliari. Questo è e hanno è poco, gli obblighi e hanno le restrizioni, quindi non possono ricevere visite, usare, esatto, il telefono. Esatto, hanno le restrizioni, qua. Quindi tutti e tre, nessuno dei tre può ricevere visite, telefonate, niente di tutto questo, insomma. Ovviamente sono stati già nominati da questi tre compagni gli avvocati che li stanno seguendo, immagino. Sì, sì, anche perché avevano già dei legali di fiducia, in quanto comunque sono appartenenti al movimento, quindi non sono nuovi a atti di repressione, insomma, non è la prima volta che vengono colpiti da denunce e cose di questo genere, quindi con un legale siamo direttamente in contatto, anche perché il legale è anche un compagno, quindi tant'è che oggi pomeriggio ci dovremo vedere, perché adesso l'avvocato è fuori per un processo, speriamo che possa tornare nel pomeriggio. E niente, ad uno dei ragazzi, a Davide, pare che sia stata contestata la sola resistenza aggravata, quindi probabilmente la sua situazione era meno pesante rispetto a quello che si è letto sui giornali, perché si parla anche di devastazione e saccheggio. Dalle prime notizie che abbiamo, a Davide sarebbe contestata solo la resistenza, però ecco, è ancora presto per dire, perché comunque dobbiamo parlare con legale. Okay. E poi niente, come dicevi giustamente prima tu, un'operazione condotta a livello nazionale, importanza del genere, non capiamo come mai ci sia questo accanimento nello specifico contro Azione Antifascista, perché leggendo tutti i blog, tutti i giornali, pare che, cioè, non lo so, solo, si cita solo Azione Antifascista, in un caso viene fatto anche il nome di Davide. Noi con questo non vogliamo fare vittimismo, perché noi a Roma c'eravamo e non abbiamo nulla di cui vergognarci, non abbiamo fatto nulla di cui vergognarci. Però ecco, riteniamo che qui siamo di fronte non a una persecuzione, però sicuramente ad un accanimento. Senti, perché... com'è la situazione in città? Ci vuoi raccontare un po'? Cioè, ci sono espressioni di solidarietà, ci sono compagni e compagni e non solo che si stanno mobilitando in difesa di questi tre compagni che esprimono solidarietà all'Azione Antifascista? Avete fatto un'assemblea? Ma sì, questo, sicuramente sì, adesso sì, noi ci siamo visti, anzi adesso praticamente stiamo continuando a confrontarci, poi in serata faremo un'assemblea. Però sì, la solidarietà c'è, anche perché era un momento in cui in città avevamo anche un certo consenso, avevamo organizzato delle iniziative belle, partecipate, quindi non c'erano stati più problemi, quindi diciamo che eravamo anche ben visti in quest'ultimo periodo in città. Quindi ci dispiace ancora di più di questa cosa, perché capita proprio in un momento positivo. Comunque, come ti dicevo anche in precedenza, la nostra volontà è quella di continuare, anzi semmai di lanciare, perché i tre compagni arrestati vogliono questo, perché loro al posto nostro avrebbero fatto questo, e per questo noi intendiamo dapprima organizzare qualcosa proprio specifico per esprimere la solidarietà, e poi continuare con le iniziative che avevamo già in programma. Noi domani probabilmente, quasi sicuramente, verremo a Roma alla marcia a San Lorenzo per il 25 aprile. Abbiamo già programmato una festa per celebrare la liberazione che faremo, e che anzi faremo con più forza, avrà ancora più significato, perché oltre a ricordare il sacrificio dei nostri eroi partigiani, avremo anche la possibilità di denunciare quello che è accaduto, quello che sta accadendo. Ok, e va bene, immagino insomma che presto farete un comunicato in cui raccontate quello che è successo, esprimete sì, solidarietà, sì, in giornata, alla mobilitazione e cose di questo tipo, presumo, no? Sì, in giornata uscirà un comunicato, e poi già, come dicevo prima, già da stamattina stiamo pensando a come muoverci per organizzare qualcosa specifico, insomma, in solidarietà ai tre compagni arrestati. Poi tre, perché fino adesso, come ti ho detto, non abbiamo notizie di questi tre, però non è escluso che ce ne siano altri nella provincia di Teramo. E quindi stasera c'è questa assemblea nella quale decideremo, anche sentendo gli avvocati e quindi avendo un quadro più chiaro, perché comunque il quadro chiaro adesso non c'è, perché abbiamo notizie frammentarie, abbiamo notizie discordanti, e stiamo cercando di ricomporre un po' i vari pezzi. Ok. Beh, ovviamente appena avete novità, c'è un comunicato, insomma, ce lo inviate anche qui a Roma, si esprimerà solidarietà, lo faremo girare e tutto quanto. Insomma, come dicevi tu, appunto, il 15 ottobre Azione Antifascista Teramo, come centinaia di realtà collettive, erano presenti alla manifestazione, e non c'è nulla di cui vergognarsi, anche c'è da ricordare che quel giorno c'è stata una aggressione continua e ripetuta da parte delle forze dell'ordine contro i manifestanti, che ci sono stati decine di feriti tra i manifestanti, che da allora ci sono stati numerosi arresti, denunce e perquisizioni che hanno colpito tutta Italia. Ci sono già stati una prima serie di processi dove purtroppo le condanne sono state estremamente pesanti, per tutti si contestava il reato di resistenza o resistenza aggravata, a dimostrare che in realtà, insomma, le procure di Roma e di tutta Italia avevano ben poco da contestare ai manifestanti, se non il semplice fatto di essersi autodifesi dall'aggressione portata avanti dalle forze dell'ordine. per cui c'è stata e c'è tuttora a distanza di mesi una volontà repressiva di mettere paura, di gettare anche fango, insomma, contro i compagni e le compagne di Teramo, di Roma, di tutta Italia, per quello che è accaduto in quella giornata. Sì, è perfettamente condivisibile il discorso tuo, anzi è sostanzialmente quello che sosteniamo anche noi, perché altrimenti non si spiega il fatto che dopo 6 mesi si continui a mandare arresti e denunce per fantomatici capi d'accusa, sbattendo il mostro in prima pagina come se siamo di fronte a un accanimento, inutile girarci intorno, come quello che ci dicevamo prima, insomma. Sì, comunque, come dici tu, sbattono il mostro in prima pagina come hanno fatto con tutti gli arrestati e gli arrestati. Sì, no, ma infatti il discorso è generale, non ne faccio un discorso solo di Teramo. Certo. Questo è il modus operandi delle forze dell'ordine, dei media, del sistema in generale, che chiaramente punta il dito contro coloro i quali cercano di sovvertire tale sistema, di cambiare tale sistema. Noi siamo consapevoli dei pericoli, per così dire, che corriamo nel momento in cui ci schieriamo dall'altra parte della barricata. È per questo che, nonostante gli arresti e le denunce che continuano a colpirci, andiamo avanti fieri di quello che abbiamo fatto, senza avere nulla di cui vergognarci. Andiamo avanti come prima, anzi più di prima, e queste azioni non fanno altro, anzi, che darci ulteriore grinta, ulteriore voglia di andare avanti, perché se qualcuno vuole eliminarsi è perché evidentemente abbiamo colto nel segno e siamo scomodi. Esatto, va bene. Ok, ti ringraziamo e immagino che ci risentiremo nel corso del pomeriggio per valutare un po' come staranno andando le cose e anche quali saranno le risposte da Teramo e non solo a questo punto. Come no, sicuramente ci discutiamo e abbiamo le cose più chiare, no, le cose più chiare voi, e per farci altre chiacchierate, insomma, aggiornarci. Ringrazio per la possibilità che ci avete dato, insomma, di informare anche a Roma di quello che sta avvenendo qui come in tutta Italia. Ci mancherebbe. Va bene. Un abbraccio solidale a tutti voi. A presto, ciao. Grazie. Ciao, ciao.